Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Omosessualità latente. L'esposizione che segue costituisce una risposta ad una mail che mi è pervenuta nel dicembre 2010. Preciso che non sono né un medico né uno psicologo e che quanto dirò deriva unicamente dalle esperienze maturate in progetto gay. Questo è il testo della mail che ho ricevuto. Età 41-45. Salve. Vorrei capire qualche cosa di più sull'omosessualità latente e come può rivelarsi. Mio marito, che ha 43 anni, si sarebbe scoperto recentemente bisessuale, ma la costante mutevolezza ed incertezza delle sue scelte culturali e professionali, il suo attaccamento a me anche sessuale per anni, attaccamento appassionato, l'involontario occasionale interesse estetico per altre donne, la coincidenza del suo coming out in concomitanza con l'evidente necessità di assumersi impegni più maturi rispetto ad un passato in cui io sola mi sono fatta carico del progetto di vita comune coinvolgendolo sempre, il suo inseguirmi quando mi allontanavo, sono tutte cose che mi lasciano molto perplessa. Io rispetterei dolorosamente la sua scelta se potessi credere che è ineluttabile, ma sospetto che sia un pretesto semiconsapevole. Il nostro ambiente è sempre stato libero ed aperto, abbiamo sempre frequentato amici gay, il nostro dialogo era profondo e lui non aveva motivo di celarsi per quasi un ventennio. Vi sarei molto grata per un'opinione. Questa è la mia risposta. Partiamo con una premessa. Intanto, con l'espressione omosessualità latente si intende una omosessualità della quale non si ha consapevolezza. Non si tratta di omosessualità repressa consapevolmente, ma di una realtà che opera al di sotto dei livelli di coscienza e che si manifesta attraverso una serie di fenomeni che vengono interpretati da chi li osserva in se stesso sulla base di categorie del tutto estranee all'omosessualità. In sostanza, uno che abbia dubbi circa il fatto di poter essere gay non ha nulla a che vedere con l'omosessualità latente. Per rendere il discorso più concreto, esaminerò qui di seguito il testo di una mail che ho ricevuto da un 43enne che chiameremo Marco. Il materiale che sto per presentare è autentico e lo presento previa autorizzazione dell'autore. Ciao Project, vorrei chiederti un parere su alcune questioni che da qualche tempo mi danno da pensare. Devo fare una premessa necessaria: sono un uomo sposato, ho una figlia di quasi 19 anni, sono sempre stato etero. Le ragazze mi hanno sempre cercato e stare con loro mi piaceva molto. Purtroppo certe volte sono proprio stressato e forse c'è un po' di ansia di prestazione, per cui qualche volta vivo la sessualità in modo non proprio sereno, però con mia moglie sto bene. Lei a me ci tiene moltissimo, con lei mi sento a mio agio e poi non è una cosa essenzialmente sessuale, ci vogliamo proprio bene. Da quando sto con lei non sento più il bisogno di masturbarmi. Anche perché con lei facciamo sesso abbastanza spesso e d'altra parte la masturbazione non è mai stata una fissa per me, riuscivo a farne a meno anche prima. Quando mi sono messo con mia moglie non avrei mai creduto di poter vivere la sessualità con lei, cioè la spinta che provavo verso di lei non è stata quella. Poi le cose sono venute da sé piano piano, avevo un po' di timori che però si sono sciolti via via e adesso le cose vanno bene. Quanto agli amici, ne ho anche di gay, non ho nessuna preclusione di principio nei loro confronti, faccio ancora vita sportiva, non agonistica, ho la possibilità di vedere i miei compagni di squadra nudi un sacco di volte, ma la cosa mi è del tutto indifferente, non ho mai pensato che avrei potuto fare sesso con un ragazzo. Ho un amico col quale mi trovo benissimo, un amico etero, un compagno di squadra, ci sentiamo spesso e il dialogo tra noi è molto bello. Lui mi racconta le sue emozioni e io con lui parlo di tutto, problemi sessuali compresi. Capita che usciamo spesso in quattro, io, lui e le nostre mogli. Con questo amico parlo molto, ma per me la sua presenza non ha e non ha mai avuto nessun altro significato, cioè un amico e basta. Dicevo all'inizio che qualche volta mi sento un po' stanco e penso che questo comprometta un po' i rapporti con mia moglie. Certe volte quando sto con lei mi tornano in mente i problemi di lavoro e questo non mi piace proprio perché mi perdo i momenti più belli, ma passerà, ne sono sicuro. Fin qui la prima mail di Marco. Passiamo ora all'analisi dei contenuti di questo brano che costituisce l'avvio della mail. Fermiamoci intanto sulla fenomenologia in ambito etero, in sostanza sulla debolezza della sessualità etero. Marco ha o può avere problemi di erezione quando si trova in intimità con la moglie, tende a distrarsi durante i rapporti sessuali etero, vive la sessualità etero come risposta alle iniziative della moglie, fin dall'inizio del rapporto con la ragazza che sarebbe diventata sua moglie, non si masturbava pensando alla sua ragazza o non lo faceva spesso, anche se non aveva con lei rapporti frequenti. In tempi recenti tende a passare più tempo con i suoi amici o con un suo amico che con la moglie. Per lui la sessualità etero non ha la valenza di una pulsione primaria, ma riveste il ruolo di un completamento di un rapporto affettivo, ossia l'interesse sessuale non è la prima spinta alla creazione di un contatto affettivo, ma al contrario, dalla scelta affettiva primaria deriva anche la disponibilità sessuale. Marco non ha in mente un tipo fisico di ragazza che susciti in lui un interesse sessuale immediato, cioè non ha un archetipo sessuale femminile. In età adolescenziale è stato sempre cercato dalle ragazze, non dice di averle cercate, e con loro ha avuto qualche forma di contatto sessuale, ma non ha preso l'iniziativa. La masturbazione in età adolescenziale non era frequente. Vediamo ora la fenomenologia in ambito gay, in sostanza l'assenza di una sessualità gay. Marco non ha mai avuto reazioni sessuali riferibili alla presenza di un altro ragazzo. Frequenta palestre, piscine, spogliatoi e fa la doccia insieme con gli altri, ma senza alcuna risposta sessuale. Non prova alcun imbarazzo nell'affrontare discorsi che riguardano l'omosessualità, anche amici gay, con i quali ha un rapporto del tutto simile a quello che ha con gli amici etero. Non è mai stato neppure lontanamente sfiorato dall'idea di potersi masturbare pensando ad un ragazzo. Proseguiamo ora con il testo di un'altra mail di Marco che palesa gli elementi di crisi dell'identità etero e il primo affacciarsi di una ipotesi di bisessualità. Questa mail è successiva alla precedente di alcuni mesi. Project, tu mi dirai dove sta il mio problema? E qui comincio a non capire bene. Io voglio bene a mia moglie, con lei ho condiviso tutto, è una donna come si deve e per me ha fatto moltissimo. Si è perfino messa contro la famiglia per sposarmi, perché la famiglia avrebbe voluto che sposasse un altro che i genitori conoscevano, ma lei si è imposta e ci siamo sposati. Ci tengo a sottolineare che non è stata affatto una scelta di opportunismo, ma un matrimonio d'amore. Io, specialmente i primi tempi, con lei ho vissuto proprio anni meravigliosi. Non mi mancava nulla quando ci siamo sposati, io avevo 23 anni e lei 21. L'anno dopo è nata nostra figlia e non avrei potuto essere più felice di così. Sono sposato da 20 anni e per 19 di questi 20 anni ho avuto in mente solo mia moglie. Non ho mai tradito mia moglie, non mi è mai passato neppure per la mente. Poi improvvisamente si è presentata una situazione che mi ha messo in crisi. Abbiamo ospitato a casa nostra un nipote di mia moglie di 22 anni, chiamiamolo Luca, un bel ragazzo. Credo che mia figlia se ne sia innamorata e fin qui non ci sarebbe nessun problema. Fatto sta che una notte in cui mia moglie non c'era perché era andata dalla madre, ho fatto uno dei rarissimi sogni erotici della mia vita, un sogno bagnato, e ho sognato Luca. Ho sognato che lui voleva essere abbracciato da me e siamo finiti alle carezze intime e io sono arrivato all'orgasmo. Nel sogno era tutto molto bello, ma quando mi sono svegliato e ho fatto mente locale mi è crollato il mondo addosso, mi sentivo sporco, sia perché si trattava di un sogno omosessuale, sia perché Luca ha 22 anni, quasi l'età di mia figlia. E poi pensavo a mia moglie, mi chiedevo se con lei avrei dovuto parlare oppure no, e stavo proprio malissimo. Poi mi dicevo che i sogni non significano niente. Ma questo mi lasciava perplesso perché nel sogno ho vissuto emozioni sessuali violente, cose che non avevo mai provato prima, come una specie di supersessualità. La mattina ho visto Luca che mi chiamava zio, mi sentivo un traditore della fiducia di quel ragazzo, perfino una specie di pedofilo. Stavo malissimo, ma mi sono fatto forza e e non ho fatto trasparire niente di quello che mi portavo dentro. La sera è tornata mia moglie, abbiamo fatto l'amore, è stato bellissimo. Direi che mi sembrava di essere tornato ai primi tempi del nostro matrimonio. Mi sentivo confortato perché tra me e mia moglie non era cambiato nulla e se era cambiato era cambiato in meglio. L'incubo di poter essere omosessuale lo sentivo meno incombente. Quando Luca è tornato a casa sua mi sono sentito sollevato come se il pericolo fosse passato. Comunque a mia moglie non ho detto nulla, sia perché non la volevo agitare, sia perché pensavo che fosse una cosa passeggera. Per 2 mesi sono tornato alla mia vita di prima, poi, d'estate, in vacanza, mi sono trovato con un ragazzo poco più grande di Luca e mi sono accorto che ero portato ad osservarlo. Mi sembrava bellissimo, sorridente, con un sorriso che non ho mai visto in una ragazza. Ne ricordavo la voce, i gesti, le mani grandi, bellissime, con una pelle perfetta. Questo ragazzo, che chiamerò Silvio, si è affezionato a me. Veniva a casa nostra, al mare. Mia moglie pensava che stesse appresso a nostra figlia, ma non era così. Silvio veniva per stare con me e io con lui stavo bene. Cercavo tutti i modi per poter passare un po' di tempo con lui. Per un po' la cosa è stata molto gradevole, ma poi ho cominciato ad avere paura di spingermi troppo oltre. Tra noi non c'è stato mai nulla e Silvio mi trattava come un papà, però per me le cose non stavano esattamente così. Non pensavo a lui in termini sessuali e questo mi faceva stare tranquillo. Cercavo di mettere da parte l'idea di poter essere innamorato di Silvio, ma di fatto era così. Però ti ripeto, nessuna fantasia sessuale su di lui, proprio mai. Non lo so, forse mi reprimevo, però Silvio mi faceva stare bene. Anche questa volta non ho detto niente a mia moglie. E in fondo non avevo nulla da dire. Tra me e Silvio non c'era stato niente, nemmeno un sogno. Però con Silvio avevo meno paura di poter scoprire di essere bisexe. Diciamo che lo mettevo in conto almeno in astratto. Non parlo di essere omosessuale, ma bisessuale, perché con mia moglie i rapporti sessuali andavano ancora bene, o almeno passabilmente. Torna l'autunno e viene nel mio studio un praticante nuovo sui 25 anni. Su di lui sono cominciati i pensieri sessuali e il mio terrore è ricominciato. Sono arrivato a chiedere di essere mandato in un'altra sede, ma poi avevo bisogno di vederlo e sono tornato dove stava lui, che non si è mai accorto di niente. Anche con questo ragazzo non c'è stato mai nulla, ma è stato il primo ragazzo sul quale ho fatto fantasie erotiche. Per un verso ero spaventato, ma per l'altro mi dicevo: ma perché no? Dopotutto una cosa del genere non distrugge il mio matrimonio. Questi ragazzi non ne sanno niente, allora perché privarmi di una cosa che in fondo non fa male a nessuno? Sono bisex, ok, ne prendo atto. Tanto poi queste cose restano tutte nella mia fantasia, perché non mi viene proprio in mente che potrei mettere in crisi il mio matrimonio e il rapporto con mia figlia per una fantasia sessuale. Diciamo che questo è lo stadio al quale sono adesso. La mia vera paura è quella dell'escalation, cioè che queste cose, che prima non esistevano proprio e che poi, piano piano, ho finito per accettare, possano evolvere presentandomi il conto e magari spingendomi in qualche avventura che mi potrebbero mettere in grosse difficoltà. Fino a qui mi sento di accettare quello che mi sta succedendo, ma ho il terrore che la cosa non si fermi qui. Mia moglie non sa nulla di tutto questo e tra l'altro non saprei proprio come farle capire una cosa del genere. Fin qui la mail di Marco. Ma al di là dell'esempio che ho riportato, si verificano situazioni in cui il mantenimento degli equilibri precedenti all'emergere dell'omosessualità è di fatto impossibile. L'evoluzione in quei casi non va verso una bisessualità a prevalenza etero in cui è possibile contenere l'omosessualità nel limite della masturbazione gay e perfino episodica, ma verso forme di omosessualità esclusiva che mettono in crisi il matrimonio e portano inevitabilmente alla separazione. Nel caso di Marco la moglie è del tutto inconsapevole, ma nei casi in cui l'omosessualità latente evolve in omosessualità esclusiva, il ruolo della moglie diventa critico, perché in queste situazioni il marito intende il matrimonio come una trappola e il rapporto coniugale mantiene solo aspetti negativi. In genere i mariti che escono da situazioni di omosessualità latente parlano con le mogli solo se avvertono l'impossibilità di proseguire il legame matrimoniale, E in questi casi, anche se i mariti si qualifichino come bisessuali, c'è da credere che si tratti invece di omosessualità esclusiva. Bisogna dire che in genere le mogli ritengono il comportamento del marito oggetto di una scelta, cosa che non corrisponde alla verità. Si tratta invece dell'emergere di una sessualità latente, cosa che comporta per chi vive queste situazioni stato di disagio spesso molto profondi. L'emersione dell'omosessualità latente è in genere accompagnata da ansia, in particolare quando riguarda uomini sposati e con figli. In questi casi è necessario arrivare ad elaborare scelte tutt'altro che facili, che possono comportare grossi problemi anche a livello legale ed economico, oltre che affettivo. Va sottolineato che non è affatto detto che l'omosessualità latente finisca necessariamente per emergere e per arrivare ad essere un'omosessualità cosciente. L'emersione a livello di coscienza in genere è catalizzata da eventi esterni emotivamente molto forti, in assenza dei quali la latenza può durare anche tutta la vita. L'omosessualità latente oggi è in realtà una cosa piuttosto rara, ma ci sono ampie testimonianze di una sua diffusione decisamente maggiore in periodi in cui l'omosessualità era ritenuta un tabù assoluto. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del